La rosa purpurea di Franco D'Assisi. Eccoci qua, come il Sol Leone in questo agosto caldo caldo, la Rosa Purpurea non si ferma, non vi lascia con tutto il cinema che c'è qui su Radio 24. Un saluto da Franco D'Assisi, settimana con un paio di uscite importanti per questa stagione, tutto sommato, perché un film Disney e un supereroi, tutto sommato, il 10 agosto, il 13 agosto, non sono poca roba. E poi, chiaramente, festival, chiaramente Locarno, che proprio in queste ore, nelle prossime ore, chiuderà i battenti con l'assegnazione del Pardo d'Oro, lungo collegamento con Boris Sollazzo per parlare di come è andato questo festival, ma anche per sentire Stefania Sandrelli, che ne è stata una delle protagoniste in un'intervista che abbiamo preparato per voi, e poi ancora Olimpiadi, che ci stanno dando tante gioie e soddisfazioni, e Chiara Pizzimenti ci ha preparato un bel servizio su come le Olimpiadi sono state raccontate al cinema. Chiuderemo con due donne del cinema, una che ha tutta una carriera gloriosa come Fanny Ardant dalla sua, l'altra che forse questa carriera se la vuole costruire, Matilde Joly, e quindi l'oggi e il domani del nostro cinema. Insomma, puntata molto ricca, allora non perdiamo altro tempo, cominciamo subito a entrare nel vivo della nostra trasmissione. Con Il Drago Invisibile torna una vicenda Disney veramente molto toccante, molto emozionante, che prende le mosse da un vecchio film del 1977. Qualcuno che ha qualche anno in più forse se lo ricorderà, Elliot, Il Drago Invisibile, film di animazione totalmente bidimensionale ovviamente all'epoca, ma con inserti di live action, e già questo segnalava una certa modernità. Adesso le tecnologie sono molto cambiate e Elliot, Il Drago Invisibile, ritorna. Io ero qua giù, nel settore est. Ma sono 80 chilometri a est. Da dove lo abbiamo trovato? Ehi! Su, aspetta! Mi dici dove sono i tuoi genitori? La tua famiglia? Secondo me facevano un picnic o un campeggio. Lui si è allontanato e si è perso. Ha vissuto nel bosco, fa le cose a modo suo. Ha l'aria di essere il bambino giusto per te. Da quanto tempo è lì? 6 anni. Non si sopravvive nella foresta per 6 anni da soli. Lo vedrai. Io ho Elliot. Chi è Elliot? Ecco, chi è Elliot? Stavamo per perdere la domanda centrale. È la storia, l'avete sentita, di un bambino che viene sostanzialmente adottato da un drago, che appunto chiama Elliot, perché così si chiama il personaggio, il cagnolino protagonista del suo libro preferito. Loro vivono bene in simbiosi, con grande rispetto, con grande amore. Chiaramente una guardia forestale che da decenni racconta ai bambini del paese di un incontro col drago si accorgerà che Pitt, appunto, il bambino, cerca di portarlo verso questa soluzione, anche se nessuno ci crede, anzi molti temono che il bambino sia sparito, che non si trovi più. È l'eterna storia dell'incontro-scontro fra l'uomo e la natura, che poteva essere quella di Tarzan, che poteva essere quella di Mowgli, e che Disney riporta in auge appunto con questo drago invisibile che gode oggi appunto di effetti speciali degni di nota. Boris Sollazzo in collegamento con noi da Locarno, fra poco parleremo anche del festival. Ciao Boris. Ciao Franco, buongiorno a tutti gli ascoltatori. Senti, quando eri piccolo, Elliot il drago invisibile lo vedevi, lo leggevi, te lo ricordi? Me lo ricordo bene, amavo molto il personaggio, lo immaginavo più che vedevo, devo essere sincero, perché me lo raccontavano molto, quindi insomma fa parte proprio di un immaginario atavico per quanto mi riguarda. E gli ha fatto bene questo bagno di 3D o invece, come dire, i buoni vecchi tempi passati regalavano più poesia? Come ti sembra questa versione? Ma io alla fine sono soddisfatto, sono un po' cresciuto nel frattempo, quindi forse non lo posso apprezzare quanto lo apprezzavo in passato, e devo dire che la mia sensibilità del passato era molto soddisfatta dal 2D e quella attuale anche dal 3D, perché il 3D in questo caso non è aggressivo, si adatta all'immaginazione che suscita Elliot il drago invisibile. E noi abbiamo, secondo me, un problema in questo periodo, proprio cinematografico e di narrazione, quelli bravi direbbero storytelling, che riguarda un po' molti film che ci troviamo ad affrontare in questi anni, che siamo abituati a schemi molto molto precisi, e quindi per esempio un cartone animato che si richiama a un universo più infantile, più elementare, più strettamente divertente per un bambino in generale, per chi vuole andare a vedere dell'animazione, ci mette un po' a disagio, e quindi magari Elliot, il drago invisibile, certo, non è quel tipo di film che, a cui ci ha abituato negli ultimi anni la Pixar, la DreamWorks. È un film più classico, un film che si richiama a stilemi più consueti, qualche anno fa, appunto, di quando io ero piccolo, ma alla fine è veramente il classico film grazioso che a volte usiamo per sminuire un film. In questo caso è proprio il film che voleva essere, e questo perché sostanzialmente prende Il libro della giungla, lo innesta nella storia infinita con la presenza di Elliot, il drago invisibile, che è una presenza abbastanza importante nell'immaginario di molti di noi, perché lo conosciamo, perché lo abbiamo letto, perché ce l'hanno raccontato e perché lo abbiamo visto. In 3D non lo rovina, per il semplice motivo che si adatta visivamente a quell'immaginario lì, quindi è un 3D, se vogliamo, pastello, un 3D che non calca sugli effetti speciali, e la cosa più importante del film rimane la costruzione dei personaggi, e quindi Elliot è divertentissimo nel suo essere un padre putativo, un fratello putativo di Elliot, abbastanza goffo, è un drago che in tutti i momenti di pericolo si dimentica di saper volare, di avere il fuoco in gola, di potersi effettivamente difendere, e quindi ha quella goffaggine divertente di un animale gigante e pericoloso che in fondo non sa di esserlo, e in questo caso, insomma, come ricordiamo, la storia infinita è un riferimento molto interessante. Dall'altra parte c'è Elliot, cioè il classico bambino, uomo, bambino che deve diventare uomo, che deve affrontare la natura, la deve affrontare come l'affronterebbe un bambino. Qui, in questo caso, oltre al 3D, quindi, c'è anche un lavoro di scrittura che non è particolarmente approfondito, cioè non cerca secondi, terzi, quarti piani di lettura, ma è molto solido nel suo piano di lettura, cioè in quello della fiaba, in quello del racconto che ti deve scaldare il cuore, che ti deve divertire, che ti deve portare in un universo in cui la credulità deve essere sospesa. Ecco, adesso siamo un po' più cinici e la credulità ce la facciamo sospendere di meno, ma se entriamo in sala con il sorriso, senza troppe aspettative, secondo me questo drago invisibile lo porti a casa con molta soddisfazione. C'è il gusto di quello che dicevamo all'inizio di questa recensione, cioè il gusto dello storytelling, del nonno, dello zio, del papà che ti racconta una favola e tu ci credi perché ti piace crederci, perché ti piace entrare in un universo che non necessariamente deve avere una sua credibilità, ma che deve essere solo buon intrattenimento. E quindi io alla fine, onestamente, torno un po' bambino e lo promuovo senza problemi. Questo è un drago. Non devi più scappare, Pete. Puoi restare con noi. Quel coso è pericoloso. Io non voglio lasciarti, ma ti verranno a cercare. Che faranno ad Elliot? Tu non sai che cosa è in grado di fare questa bestia. Elliot, vola! Sei molto coraggioso, lo sai? Sei il bambino più coraggioso che io abbia mai conosciuto. A tutte le unità, siamo diretti a est su Millennium Road, all'inseguimento di un... drago! È un drago! Non devi dire drago alla radio. Eh sì, si può dire drago alla radio invece, qui a Radio 24, Il drago invisibile, il film Disney di questo fine settimana, uscito in realtà il 10, quindi già da qualche giorno nelle sale. Tra l'altro segnalo nel cast nomi importanti come quelli di Robert Redford e Bryce Dallas Howard, tanto per dirne un paio, promosso dal nostro Boris Sollazzo. Noi adesso sentiamo come vanno le cose sulle strade di questo ultimo probabilmente esodo estivo, poi ci sarà Ferragosto, quindi traffico che va sempre monitorato. Fra poco però torniamo qui per il traffico nelle sale cinematografiche per parlare di un film che sta già facendo molto discutere, incassando bene e dividendo molto. Si intitola Suicide Squad. La rosa purpurea. Signori, signore, pensate se Superman decidesse di planare giù, scoperchiare la Casa Bianca e portarsi via il presidente dallo studio Vale. Chi lo fermerebbe? voglio una squadra di gente molto cattiva che può fare qualcosa di buono. Voi dovete essere pazzi. Questo è l'accordo. Chi disobbedisce, muore. Chi tenta la fuga, muore. Ce l'hai, ragazzo? Innervositemi o irritatemi. Io so essere molto irritante. Ti volevo solo avvertire. Morirai. E allora, una clip tratta da Suicide Squad, il supereroe estivo di questo nostro 2016, film che arriva in Italia proprio in questo weekend. Hanno scelto il 13 agosto per l'uscita i distributori, ma che altrove sta già facendo veramente grandi incassi. Questo film sulle imprese di una squadra di cattivi, come avete sentito dalla clip, creata ad hoc per combattere una minaccia sovrannaturale, pur avendo ricevuto critiche super negative che ne hanno determinato il crollo nel sito che molti conoscono, Rotten Tomatoes, che dà appunto critiche anche abbastanza salaci. Ciò nonostante, il parere dei critici, noi lo diciamo da tempo, Boris, non conta niente, e quindi sembra non avere minato questo debutto al botteghino, che ha segnato un record per il mese di agosto, parliamo dell'America ovviamente, negli Stati Uniti, con 135 milioni di dollari solo negli Stati Uniti e 132 nel resto del mondo. Gliene può fregare qualcosa del parere dei critici? No, assolutamente no, Boris, però raccontaci un po', sono tutte così fondate queste critiche iper negative? Suicide Squad è esattamente l'esempio del fatto che quando qualcosa va a toccare il nostro immaginario con gli schemi molto rigidi che gli abbiamo dato, ci mette a disagio, e purtroppo spesso gli schemi peggiori ce l'hanno proprio i critici, anche se poi è sbagliato utilizzare questa categoria generalizzando. E allo stesso tempo c'è anche da dire che probabilmente questo però mette a disagio anche chi lo fa. Allora, su Suicide Squad va fatta una piccola premessa. La battaglia veramente quasi a livello supereroistico che si è creata nell'opinione pubblica degli addetti ai lavori è stata una battaglia davvero molto molto aspra, e che addirittura è arrivata al punto di accusare alcuni critici o alcuni influencer di essere corrotti dalla DC oppure corrotti dalla Marvel. Per chi se lo ricorda, sembra un po' la guerra che si creò per Shyamalan su Lady in the Water, in cui la guerra tra Warner e Disney vide molti schierarsi da una parte o dall'altra. In quel caso Lady in the Water fu massacrato poi anche al botteghino da questa guerra. Qui invece si è creata una situazione diversa. Ecco, secondo me è ingiustificata la violenza che si è portato avanti su Suicide Squad. Cercando di essere oggettivi ed obiettivi, Suicide Squad è un film estremamente scombinato, estremamente incapace di tenere la barra dritta. Insomma, è come una bella nave, una bella barca a vela nel pieno di una tempesta, che a volte riesce a salvarsi dal naufragio con manovre geniali e altre invece sembra andare contro un'onda molto alta e magari spezzare l'albero. È anche secondo me il suo fascino, nel senso che tu dai un film supereroistico molto particolare a un regista ancora più particolare, che è David Ayer, che è quello che ha fatto Fury, ma che ha iniziato facendo anche lo sceneggiatore e regista di film noir notturni molto cattivi, molto indipendenti. A mio parere risulta scombinato, perché se si va a vedere la storia di Suicide Squad, cioè dall'uscita del primo trailer e partendo ancora prima dai problemi produttivi che ha avuto fino al montaggio finale, è evidente che ci sono passate troppe mani su quel film. Se si vede il trailer e si vede il montato finale, sono sostanzialmente due film diversi. Ci sono cose interessanti tipo Will Smith e ancora di più una sorprendente Margot Robbie, che sembrava agli inizi del suo successo una bambolina perfetta ma non particolarmente carismatica, che invece sta facendo un percorso recitativo molto interessante, e qui sicuramente il personaggio più interessante. È un film follemente nichilistico e allo stesso tempo però follemente nichilista e allo stesso tempo però anche con delle derive sentimentali che a volte sembrano abbastanza improbabili. E qui torniamo sulla sospensione della credulità. noi siamo ormai abituati a film supereroistici che sono degli enormi family movie e che pretendono, nonostante ci siano superpoteri, nonostante ci siano super battaglie, super guerre sopra le nostre teste, debbano avere comunque una traccia di credibilità. Qui in Suicide Squad sostanzialmente se ne fregano. Poi chiaramente Suicide Squad si prende dei rischi enormi. Pensiamo solo a Joker fatto da Jared Leto, che a mio parere già non è uno straordinario attore, che tende molto ad appoggiarsi a quella faccia clownesca, quella faccia molto particolare, ma è una sorta di Johnny Depp ultima maniera, senza provare a uscire dal suo personaggio, e che si ritrova a combattere nell'immaginario con Joker molto più forti. Quindi ci sono una serie di rischi che probabilmente e di scommesse che probabilmente vengono anche perse. Però alla fine Suicide Squad, certo, non è i Guardiani della Galassia, che forse è l'unico film che gli possiamo mettere vicino, a cui possiamo paragonarlo, perché come avrete sentito da tanti, questa è la storia di tanti supercattivi che devono essere messi insieme, e quindi diciamo di emarginati, di personaggi che sono fuori dal nostro contesto, dal nostro pantheon che di solito costruiamo sui film DC o Marvel che siano, e esce fuori da quel contesto e combatte una battaglia tutta sua. I Guardiani della Galassia aveva il pregio dell'ironia, aveva il pregio del racconto molto organico con la colonna sonora, e aveva una felicità di racconto che è molto diversa da quella spezzata e appunto discontinua di Suicide Squad. Suicide Squad però è un film anche moderno, che capisco perché piace al pubblico. C'è una colonna sonora molto invadente, hai l'impressione di essere catapultato all'interno, anche con violenza, all'interno di un universo che non capisci fino in fondo. Però è un film su cui mi piacerebbe che si parlasse con molta più serenità. Poi, per carità, quando si parla così tanto di cinema è sempre un sintomo della salute del cinema, e secondo me è anche il sintomo della vitalità di un film. Quindi non mi sento di dare ragione ai miei colleghi, e non mi sento però neanche di dare ragione al pubblico. Mi piacerebbe che magari provaste anche a vederlo una seconda volta, se l'avete già visto, per capire tanti modi in cui si può fare un film e tanti modi in cui si può anche rovinare un film. Diciamo che in Suicide Squad c'è tutto, come in fondo in quel titolo. Se li beccano li buttiamo sotto un bus. Giochiamo! Dai, hai di meglio da fare! Non buono! Mi raccomando, siamo i cattivi. Paroline dolci con me. Tutte queste chiacchiere ti faranno solo del male. Bye bye! Ma che fai? Vuoi vedere chi sono? Voglio vedere chi sei! Cercavo solo di smuoverti, senza rancore, amici. Che prendete? Birra. Whisky. Mica ho 12 anni. E tu, tipo caldo? Acqua. Ottima scelta, caro. E allora, il film della discordia di questa settimana sicuramente Suicide Squad. Ovviamente, come diceva Boris, dite la vostra. Abbiamo sempre la nostra pagina Facebook, La Rosa Purpura Radio 24, lì proprio come una sorta di grande lavagna nella quale esprimere il proprio giudizio sui film che si vedono. Olimpiadi, è il momento di parlare di Olimpiadi. Boris, rimani con noi perché fra poco parliamo invece di Locarno e da Locarno con questo collegamento sul festival. Però dicevo, Olimpiadi che ci stanno dando soddisfazioni come sempre, come spesso per quanto concerne i colori azzurri, ma che sono anche state un elemento abbastanza presente nella storia del cinema. Chiara Pizzimenti ci racconta come. Se si mettono insieme le parole cinema e Olimpiadi, c'è una musica che scatta in automatico nella testa. Ed è quella composta da Vangelis, premiata con l'Oscar come il film che accompagnava Momenti di Gloria. La pellicola di Hugh Hudson è l'unica dedicata interamente a un'edizione dei giochi, quelli di Parigi del 1924. Si raccontano qui le vite diverse e parallele di due campioni, Eric Liddell, missionario scozzese che corre per rendere onore a Dio, e Harold Abrams, ebreo che trova nello sport un modo per sconfiggere i pregiudizi. Io credo che Dio mi abbia fatto per uno scopo, però mi ha fatto anche veloce. E quando corro, io lo sento compiaciuto. Se questo è il più olimpionico dei film di finzione, nella parte dedicata al documentario non si può non citare Olimpia di Leni Riefenstahl. Sono le Olimpiadi del 1936, volute a Berlino da Adolf Hitler. Il regime diede alla sua regista mezzi ricchi e innovativi, compresi 500.000 metri di pellicola che lei mise insieme in un montaggio creativo, una glorificazione della gioventù, della prestanza fisica e del corpo umano, compreso quello di Jesse Owens, atleta di colore che sconfisse gli ariani esaltati dai gerarchi nazisti. La gente conta su di te. Che cosa vogliono? Che tu vada a Berlino e batta quei nazisti. Tu sei nato per correre, non dare ascolto a nessuno. In pista non esiste bianco o nero, ma solo veloce o lento. Non conta nient'altro, né il colore, né il denaro e neanche l'odio. Sei completamente libero. E appunto sulla storia di Jesse Owens si basa Race, il colore della vittoria, film nelle sale italiane nel 2016. Le leggi razziali hitleriane fanno pensare al boicottaggio. Gli americani non vorrebbero andare, alla fine decideranno per il sì. E Owens, l'uomo allora più veloce del mondo, porterà a casa 4 ori. Ancora una accoppiata, film documentario per Monaco 1972. Il secondo è Un giorno in settembre. Il primo lo filma il Remida di Hollywood. Questo è l'edificio numero 31. In questo momento 8-9 uomini sono tenuti prigionieri in preda al terrore. Sono le prime frammentarie notizie raccontate nel prologo di Munich, film del 2005 di Steven Spielberg che parte dal villaggio olimpico di Monaco di Baviera. Era il 1972 e quelle Olimpiadi non sono rimaste nella memoria per i risultati sportivi, ma per l'incursione di un gruppo di fedayin palestinesi, Settembre Nero, nella palazzina che ospitava gli atleti israeliani. Giusto poco fa ne ha avuto luogo un altro in questa lunga serie di negoziati. Il portavoce del gruppo è uscito, ha parlato ed è tornato dentro. È una sfida sportiva che deborda nella politica, quella di Miracle. Era il 1980 e ai giochi invernali di Lake Placid accadde un miracolo sul ghiaccio. La squadra americana, in piena guerra fredda, sconfisse l'armata rossa dell'hockey. La guidava Coach Brooks, con il volto di Kurt Russell. Stasera pattineremo con loro. Stasera li affronteremo e riusciremo a batterli, perché possiamo! Stasera noi siamo la più grande squadra di hockey del mondo. Un discorso motivazionale che nemmeno serviva per Eddie Edwards, detto The Eagle, primo rappresentante inglese nel salto con gli sci a Calgary 1988, la stessa Olimpiade a cui andarono i bobbisti giamaicani, anche loro finiti al cinema. Il film Eddie The Eagle è del 2016. Da che io possa ricordare, campione! Ho sempre avuto l'ambizione di diventare un olimpionico. Eddie, tu non sei un atleta! Bravo! Hai ragione, non andrò mai alle Olimpiadi. Io andrò alle Olimpiadi invernali. Aveva Bebe Bichilla in video da rivedere come ispirazione il maratoneta Dustin Hoffman, ma sarebbe stato ben più divertente se avesse guardato i cartoni animati olimpici, il recente Asterix e Obelix e il classico Disney che ai giochi mandava Pippo. La marcia, che esprime il massimo della grazia, con una perfetta coordinazione di tutti i muscoli del corpo, con un movimento in tutto e per tutto simile alla danza. E allora Chiara Pizzimenti ci ha raccontato i cinque cerchi nella settima arte. Adesso noi diamo la linea alla regia. Fra poco torniamo a collegarci con Boris Sollazzo da Locarno per parlare del festival e per ascoltare l'intervista a Stefania Sandrelli. La Rosa Purpurea. Ancora insieme la Rosa Purpurea torna a collegarsi con Locarno. Io però voglio ricordarvi che fra poco avremo un trittico di grandi nomi al femminile, due appunto nomi super affermati come quelli di Stefania Sandrelli e di Fanny Ardant, di cui ascolteremo le interviste, e poi una giovane attrice che sta emergendo, anzi direi che è già emersa, come Matilde Jolly. Prima però ricolleghiamoci con Locarno, con Boris Sollazzo, perché Boris, abbiamo fino adesso parlato dei film che sono arrivati in sala in questo fine settimana, però appunto tu sei lì a Locarno per il festival, e diciamo così, un festival che sta per avviarsi alla conclusione. Anzi, ti chiedo già subito di raccontarci quale sarà, anche con qualche ora di anticipo, quale sarà il palmarès di stasera in Piazza Grande. Ha vinto un film bulgaro, caro Franco, non sappiamo se con unanimità bulgara da parte della giuria, Godless, che è una discesa disperata nella distruzione dei valori umani. Godless si è preso anche il Pardo per la migliore attrice, è stato sicuramente il film più apprezzato anche dal pubblico del concorso internazionale, mentre il Pardo come miglior attore è andato a quell'Andrzej Sewerin, che è il protagonista di Last Family, che è il racconto della distruzione anche qui, ma di un nucleo familiare. Lo ricorderete come ufficiale nazista in Schindler's List, e si è dimostrato il solito grandissimo attore, l'interprete polacco. Gran premio della giuria va a I Nini cicatrizzate, che è il racconto di un inesorabile passaggio verso la morte di un uomo in un sanatorio del Mar Morto, come metafora della seconda guerra mondiale imminente, tratto dall'omonimo romanzo di Max Blecher. Questo è il gran premio appunto della giuria, mentre c'è da parte del cinema italiano una menzione per quanto riguarda Mister Universo di Tizia Covi e Rainer Stream, un film molto molto apprezzato, che poi però nel palmarès non ha trovato forse lo spazio che meritava. Comunque un ottimo verdetto quello della giuria, che dimostra l'attenzione molto forte che c'è stata già in selezione per le cinematografie periferiche, e che racconta di un festival di Locarno estremamente vitale. Possiamo dire che insomma questa edizione numero 69 è stata la miglior celebrazione per il rinnovo del direttore Carlo Chatrian fino al 2020, che adesso dovrà preparare il 70esimo. Ecco Boris, al di là dei vincitori, che cosa ci lascia questo festival di Locarno a livello cinematografico? Ci sono stati diversi film, a me viene in mente forse il film simbolo di questa edizione, che Le Ciel l'attenderà, che è la storia anche piuttosto urticante in un periodo come questo di due ragazze che vogliono diventare kamikaze, di due ragazze che vogliono sposare la causa del terrorismo estremo. Perché lo prendo a simbolo? Perché Carlo Chatrian secondo me ha fatto una scelta vincente, anche rischiosa in alcuni momenti, che è quella di andare a pescare nelle periferie geografiche per trovare un nuovo cinema. Nonostante il budget di Locarno sia un budget importante, simile a quello di Venezia, il pubblico, che è particolarmente esigente, particolarmente preparato, e anche una critica che viene qua, che è estremamente di alto livello, consentono a questo festival di fare un lavoro molto più approfondito sul contenuto, sulla forma, che sulla sensazione o sul divismo. Cioè non è tanto importante ciò che esce sui giornali in prima pagina o chi calpesta il tappeto rosso, quanto il valore artistico, creativo e anche la capacità di suscitare il dibattito di ciò che vedi in Piazza Grande, nella sala, nell'altra sala. Da una parte questo, e dall'altra forse la firma sono i grandi incontri, le grandi presenze che vengono, i Mamma Santissima, le icone, no? Da Dario Argento a Mario Adolf, da Stefania Sandrelli a Roger Corman. Il caso più raccapricciante di tutta la mia carriera ha inizio in un piccolo negozio di fiori, da Mashnik. Ah, buongiorno signora Shiva, come vanno le cose? Oh, e come vuole che vadano, signor Mashnik? Il nipote di mia sorella Stanley è morto a Little Rock nell'Arkansas. Oh, e com'è successo? È saltato in aria, non si sa come. Condoglianze, posso darle come al solito una bella corona di fiori per il funerale. Devo dire che Roger Corman è forse quello che più di tutti incarna quella cinefilia e quell'amore per il cinema fatto anche con pochi soldi, che spesso sono stati una delle forze di Locarno. Assolutamente sì, vedendo gran parte della cinematografia prodotta da Roger Corman, uno direbbe vabbè, ma che ci fa a Locarno Roger Corman, no? Col suo sexploitation, con le sue esagerazioni visive, registiche, produttive. E invece ti rendi conto che, come molti dicono, senza Roger Corman non ci sarebbe stata la New Hollywood, senza lui che va a pescarsi gli Scorsese e i Denny, probabilmente a fargli fare palestra, non ci sarebbe stato il momento del cinema americano d'autore più bello che potevamo mai immaginare e che soprattutto ha costruito il nostro immaginario. Ecco, Locarno, Carlos Satrián e il suo gruppo hanno questo pregio, e devo dire però fa parte anche della natura del festival, non solo dell'attuale compagine, perché sanno vedere oltre. Quindi gli Harvey Keitel non vedono solo determinati film, ma vedono appunto tutto un percorso fatto anche di piccoli personaggi in grandi film, e di Roger Corman vedono il ruolo fondamentale che ha avuto nel cinema, il ruolo fondamentale che ha avuto anche nel cambiare determinate dinamiche distributive, produttive, di rapporto con il pubblico. Poi c'è da dire che quando tu hai un rapporto con un grande del cinema come Roger Corman, capisci quanto sia stato fondamentale. Le chiacchierate qui con Keitel e con Corman in particolare sono state pazzesche, anche perché c'è sempre grande generosità. Qui a Locarno ci sono gli appuntamenti al forum, ci sono queste chiacchierate che durano anche un'ora, un'ora e mezza, come tu ricorderai, l'abbiamo già citato, c'è stato un cinino che è andato fuori da ogni schema quando è venuto qui a Locarno e probabilmente ha lasciato il testamento più bello. E lo stesso è valso per Corman, che sia nelle interviste singole sia nel rapporto con il pubblico ha dato una serie di spunti e di riflessioni davvero straordinarie anche sul cinema americano e sul cinema in generale, e ha dimostrato tra l'altro quanto amasse il cinema d'autore italiano, cioè ci ha confessato che lui stesso faceva film anche di serie B, C e D per poter portare la strada in America, per poter distribuire in qualche decina di sale i film del grande cinema europeo, da Bergman a Fellini e via dicendo. E queste sono piccole storie, piccoli racconti, piccoli film che non potresti non avere se non in festival come questi. Non è Locarno l'unico, forse è il più grande, e questo ti consente di stare in un Luna Park se sei un appassionato di cinema, perché è davvero un regalo continuo. E allora, Boris, hai citato anche Stefania Sandrelli prima, l'abbiamo anche già annunciata noi, andiamo ad ascoltare l'intervista che il nostro Boris Sollazzo, proprio a Locarno, ha realizzato con Stefania Sandrelli. Un giornalista mi ha detto che io sono il termometro del cinema italiano. Questa è la trovo una cosa calzantissima nei miei riguardi, perché io ho fatto anche dei film con Enrico Vanzina, che è un mio grande amico, ma soprattutto perché per me il lavoro è una cosa e l'amicizia è un'altra, non è, cioè io non farei mai un film per amicizia e basta. Ecco, lì c'era, quando io ho fatto Vacanze di Natale, erano metà degli anni 70 e il cinema non andava meglio di così. Per cui, come dire, ho anche calcolato un po' la temperatura del cinema italiano. E però in Vacanze di Natale c'era un personaggio che mi piaceva molto. Poi c'è stato un personaggio sempre con Vanzina di una parrucchierina che lavorava tutta la settimana ed era libera solo la domenica. E questo Tomo se la trascinava a vedere la partita. Quindi era un disegno anche bello nei confronti delle mie colleghe donne. Ecco. È un termometro anche della condizione femminile, perché le donne, sì, che ha rappresentato, da Pietrangeli a Virzì, sono sempre state più avanti di quello che erano nella società. Anche sotto False spoglie, questo a me piace molto in cinema. Dirò, uno dei film che mi piacciono di più in cinema è quando si parla in un modo e si pensa in un altro. Relazioni pericolose, che si dicevano delle battute e si pensava per me è un'occasione per un attore meravigliosa. La sentita anche questa responsabilità di rappresentare la donna. Il cinema è bello nelle pieghe, è bello anche nelle cose non dette, non sempre puntuale da aspettare che quello pianga, che quello porga la parte migliore di sé, faccia la scena madre. Quindi mi piace un cinema discreto, potente, perché il cinema è potenza. non vuol dire violento. E secondo me la potenza sta anche nelle cose non dette. Io mi ricordo un film con uno degli attori più bravi al mondo, che si chiama Tony Hopkins. Stava facendo un film di un inglese. Io mi sono accorto che lui amava lei, ripreso con la camera di nuca, de nuca, come si direbbe a Roma. E da come la guardava, lei era un po' spallata da lui. E io mi sono accorta che lui amava lei con questa inquadratura. E cioè, ecco, il cinema per me deve essere anche questo. Per essere grande, per essere prezioso, deve essere questo. Io amo il cinema perché c'è posto per tutti. Rappresentare l'umanità è così varia. Non discrimino molto io al cinema. Però sono principessa, mi piace essere servita bene, questo sì. Il cinema italiano attuale non è facilissimo, diciamo. Però questo nasce forse anche da una cultura, da un cinema che è meno interessato al ruolo della donna. Cioè, penso, non c'è un regista come Pietrangeli che si interessava... Ah, ma io questo l'ho verificato, ai noi. Pur amando molto gli uomini e fidandomi, perché io devo dire che i registi con cui ho avuto il privilegio di lavorare mi hanno avuta a tutto tondo. Però mi sono fidata anche delle poche donne con cui ho avuto il privilegio di lavorare: Margaret von Trotta, Francesca Archibugi, Sofia Scandurra. E detto, forse ci sono meno registi anche interessati a raccontare la donna nelle sue sfaccettature, cioè il film che ecco, nonostante il mio tanto lavoro, io di film come Io la conoscevo bene ne ho fatto uno con un regista che amava le donne come nessun altro, Antonio Pietrangeli. Poi ne ho fatti altri con Ettore Scola, che era un seguace. Infatti ho raccontato, no, il primo incontro al provino di Io la conoscevo bene, che era diretto da Antonio Pietrangeli. Il primo a venirmi incontro, a sfoderarmi un sorriso, è stato Ettore. E lì ho avuto modo di conoscerlo, che era co-sceneggiatore con Antonio Pietrangeli. E poi è stato sceneggiatore e regista dei film più belli che io ho fatto, credo, nella storia della mia carriera. E Monicelli, l'ho avuto spesso al Festival di Europa Cinema a Viareggio, vicino di commensale, insomma, vicino di tavola. E a un certo punto ho visto che lasciava i piatti, acchiappava il pane e se lo metteva in tasca. Ho detto, che cacchio fa questo? Ma che fa? È povero, cioè che... L'avevo visto fare ai poveri, deruba il pane e metterselo in tasca. Poi dopo 2-3 volte che gli ho detto, dico, ma Mario, dico, ma che è il tuo nome così semplice che hai? Che cos'è che ti fa acchiappare il pane e mettertelo in tasca? Cioè, no, me quando i piatti sono troppo arzigogolati, io mi prendo il pane, non li mangio, mi prendo il pane, me lo metto in tasca, quando ho fame me lo mangio. Cioè, che meraviglia di che dire di una persona così... Lo vorrei avere come fratello, come padre, come figlio, come tutto. Stefania Sandrelli, che ha ricevuto un premio a Locarno, al microfono di Boris Sollazzo per raccontarci in maniera anche condensata però tante storie di cinema. Come fra poco ascolteremo da Fanny Ardan e da Matilde Gioli, Linea alla viabilità, di nuovo insieme fra poco alla Rosa Purpura. Salutiamo Boris Sollazzo da Locarno. Ciao Boris. Alla prossima settimana e buon cinema. Viabilità. Noi di Radio 24 per le Olimpiadi ci facciamo in due. Doppio appuntamento infatti in diretta con me, Carlo Genta, ogni giorno da lunedì a venerdì. Tutti convocati dalle 14 alle 15 per tutti i temi sportivi. E raddoppio con tutti convocati alle Olimpiadi, sempre da lunedì a venerdì, dalle 18 alle 20. Con me e con Giovanni Capuano e tutti i nostri ospiti e inviati per non perdere proprio nulla di questa incredibile estate di sport. La Rosa Purpurea. E siamo giunti alla quarta e conclusiva parte della Rosa Purpurea, però ancora due interviste di rango per i nostri ascoltatori di questo agosto. Continuiamo con questa carrellata sui grandi ruoli femminili, sulle grandi attrici, perché l'avevamo cominciata nelle scorse settimane con Dominique Sandà. Avete sentito Stefania Sandrelli, fra poco toccherà Fanny Ardan. Prima però una presenza giovane, quella di Matilde Gioli, classe 1989, prima modella, poi attrice, con film anche di un certo peso, di un certo spessore, recentemente dal Capitale Umano di Virzì, che l'ha lanciata a Un posto sicuro, il film di Francesco Ghiaccio sulla dramma dell'amianto. In Piemonte. E allora Chiara Pizzimenti ha incontrato per noi Matilde Gioli per chiederle un po' quali sono anche i progetti del suo prossimo futuro. Ascoltiamo l'intervista. Il fatto di passare magari da una commedia, non so, penso a quella che ho fatto con Diego Abatantuono, Belli di papà, a un film più drammatico come può essere Il Capitale Umano o action movie come un altro film Solo per il Weekend che attendiamo tutti di vedere nelle sale. Sono tutti passaggi belli, insomma, sono tutti salti, nel senso che non so come dire, non hanno un confine tra di loro molto sottile, cioè sono proprio cose diverse e io sono per il fare cose diverse perché la completezza non si può raggiungere, però si arricchisce il bagaglio, ecco. Quindi scegli spesso cose diverse, al di là di quello che ti viene proposto, certo. Insomma, in qualche modo. Sì, se quando è possibile scegliere, perché purtroppo, insomma, io sono giovane e ancora esordiente e quindi... Insomma, ci sono attori che davvero hanno la possibilità di scegliere esattamente quello che vogliono fare. Quando è possibile scegliere, sì, diciamo che la mia strategia, che però strategia in senso con accezione positiva, non nel senso di calcolo, è quella, sì, di fare tante cose diverse per appunto aggiungere tasselli all'esperienza. Come sono i set diversi, se ti posso chiedere? Com'è Virzì, per esempio? Ogni set ovviamente è un mondo diverso. Sono di solito un set dura tra 1 o 2 mesi e tu vivi per 1 o 2 mesi con quel gruppo di persone e non vedi nessun altro, quindi si crea questo microcosmo molto intimo e come se tu facessi un pezzettino della tua vita con tutte queste persone. Poi anche se rimani legato non le vedi più, no? Quindi è come se fossero tutte piccole esperienze di vita. Lì poi il set dipende anche molto dalla personalità delle persone che ne fanno parte. Il regista fa tanto, perché il regista è colui che tiene le redini di tutto. Dai, che hai fatto la faccia da cretina. Aspetta, ne facciamo un altro. No, devo andare a quella cavolo di cerimonia. Posso usare il tuo bagno per cambiarmi? Mi casa è stu casa, tranquilla. E mica ci voglio più andare a Formentera. E perché? Pare sia bellissimo. Tu sei bellissima. Ma dai. Sei la cosa più bella che mi è capitata. Paolo è una persona molto, molto piacevole, molto accomodante, molto esigente e quindi insomma è un set in cui si trotta. Ci sono set in cui non è che si trotti meno, ma forse il regista è più vicino, no? Non so come dire, è più vicino a te e quindi si vive forse una cosa un pochino più rilassata, ma non... senza nulla togliere là, cioè nel senso quasi più goliardica, no? Più amichevole, ogni volta cambia. Hai sempre voluto fare l'attrice? Mai voluto? Mai voluto fare l'attrice, è successo assolutamente per caso. Adesso che lo sto facendo, ormai sono 3 anni che lo faccio e i film girati a questo punto, contando quello che inizio ora, sono 10, quindi è già una piccola carriera e mi piace, lo sto continuando. Rimane quel mi sono appassionata, ovviamente non mi sono innamorata perdutamente, nel senso che, ma è anche coerente con, cioè, col tuo percorso. Beh sì, non avevo mai sentito la chiamata prima e guardavo anche pochi film, non ero particolarmente coinvolta e appassionata, quindi sicuramente farlo mi ha coinvolta di più, però non è che ha cambiato radicalmente la mia personalità, cioè io rimango quella con gli stessi interessi di prima. Poi se dovessi decidere di interrompere, non sarà mai uno strappo o qualcosa che vivrò male, perché è un'incursione, vediamo se continuarlo o no. Cosa cominci adesso? Hai detto che cominciavi. In realtà comincio, ma finisco. Cioè è un film diretto da Alessandro Dalatri che giriamo a Milano, sulla storia di un giovane romano che viene a Milano e crea una startup molto rivoluzionaria nel campo della richiesta di lavoro. Lo giriamo molto in Bocconi, io interpreto una milanese bocconiana giornalista bella tosta l'avevamo iniziato a dicembre con poche settimane di lavoro perché serviva la parte invernale, ora facciamo quella estiva e quindi continuo questa esperienza. Matilde Gioli, alla Rosa Purpurea, al microfono di Chiara Pizzimenti. E a questo punto noi concludiamo questo trittico di attrici di questa nostra puntata con un volto e una voce straordinarie del cinema francese e italiano. Proprio qui il parallelo con Dominique Sandà, cioè due attrici francesi che hanno lavorato molto però anche in Italia. È stato così anche per Fanny Ardant, perché Fanny Ardant è stata un altro carattere importante del nostro cinema, con Gassman, con Monicelli, con tanti attori. L'ha intervistata, l'ha incontrata proprio Chiara Pizzimenti per chiederle un po' qual è il suo approccio con il cinema, anche oggi, anche ai nostri tempi, dopo aver fatto parte di tante storie di cinema con la S maiuscola. Sentiamo. Si è sempre abbandonata facendo l'attrice. Oui. È strano, perché è come si, un po' come il giorno del sbarcamento dei soldati sulla spiaggia. Uno si prepara, poi al momento che il cipario si apre o che si dice action, la buttati. Non essere troppo... È come un artigiano che prepara la sedia, poi subito uno si siede sopra. Hanno citato durante l'incontro una frase di Gassman, se ricordo bene, che diceva che il regista non ci si deve parlare, se si parla troppo non funziona. E... No, un attore non ci bisogna di parlare alla regista, perché si è bravo non ci bisogna, e si è brutto si impeggiora di parlare. Anche per lei è così? Stranamente le cose che mi fanno muovermi dentro sono delle particolari molto veloci. Non sono dei lunghi discorsi dove la maggioranza parte del tempo non capisco. Sono delle cose così alla periferia, subito, che mi danno un'emozione di questo regista che racconta questa storia, il suo modo di camminare o di bere il vino. Dunque sono delle cose periferiche, ma non così direttivo sulle cose da fare. Quando ripenso alle cose che ho fatto, ho sempre avuto questo lusso di fare le cose che amavo. Dunque, i ricordi, a parte uno o due volte dove mi sono sbagliata, che siano dei grandi registi o di registi che cominciavano, che era la loro primi film, ho solo ricordi di piacere, di gioia di fare le cose. Penso che il filo conduttore di tutti i registi è il grande amore per le cose che fanno. Voilà, per me è la qualità essenziale. Ettore Scola, per esempio... Ama il cinema, è intelligente, e ha questo spirito umoristico, dunque sempre con distacco, è una grande anima, grande cultura. Piacere di stare con lui su un set, con gli altri attori, voilà, è come una vita che si passa, non è così il lavoro impegnato, la testa così, o gli occhi da pesanti di come si facevamo la guerra mondiale. Ho sempre amato su un set italiano questo piacere, voilà, di stare là. Ho sempre paura della importanza, quando uno dà troppo importanza alle cose. Oppure vuoi che venga a Roma a fare la tua amante clandestina, e ogni tanto potrei venire a far visita a mia sorella qui. Che cos'è che vuoi? Sì, sì, un tassì, per favore, in via Scipione, l'Emiliano 45. Adriana, sì. Mi ricordo sulla signora della porta accanto, ridevamo sempre. Era un enorme, tutti a chiacchierare, subito uno diceva, silenzio, gira, e subito... Le grandi pianti potevano essere vicine alle grandi risate. Va meglio, non piange più. Tieni il tuo fazzoletto. Adesso è sporco davvero. Grazie, tesoro. Come hai detto? Ho sentito bene. Sì, ho detto tesoro. Sei sempre il mio tesoro, anche se non lo vuoi. È così anche su set più recenti, Sorrentino, per esempio, Ozon, che sono due giovani registi con cui ha lavorato. Mi ricordo di aver lavorato con Mario Martone... molto piacevole. Mi ricordo di un giovane regista italiano, Vincenzo Mara, molto appassionato, che era, penso che saltava sul set. Dunque, ho dei ricordi di Paolo Sorrentino, molto, che ama gli attori. che ama il cinema, che è molto intelligente anche lui. Si vede anche grande regista come Bellocchio, si vede che ama gli attori. Ma Fellini anche, va? Io penso che non si può fare questo mestiere se uno non ama gli attori, perché allora diventa intellettuale, diventa formale. Non si rivede volentieri al cinema. Cosa le piace vedere invece al cinema? Mi piace questo momento di entrare nella sala oscura, di sedermi. Non arrivo mai in ritardo al cinema. Poi subito tutto comincia, c'è una promessa di felicità. Mi piace che uno mi conta delle storie. Non leggo mai il giornale, non so mai di cosa va a trattare. Poi vedo un film, sì, per esempio, quando il giorno dopo mi sveglio e ripenso, che vedo delle inquadrature, delle battute, una certa morale. E voilà. Boh, io visito il cinema come visito la biblioteca. È il bello del cinema, il sentir raccontare le storie di qualsiasi tipo, non si fa distinzione fra cinema italiano, francese, tedesco. Quello, quando uno mi dice qual è la differenza fra il cinema italiano o francese, io non so dirlo, perché al mio avviso il cinema è la grande lingua internazionale. E dunque uno può vedere un film coreano o cinese o giapponese o indiano, ascolta, vuole sapere la fine, ha delle emozioni, ha delle ribellioni, dunque vuol dire come un libro, come un quadro, come la musica. Fanny Ardana, La Rosa Purpurea, per chiudere questa puntata di Ferragosto, direi. A questo punto non mi resta che augurarvi proprio un buon Ferragosto. Noi ci risentiamo qui alla Rosa Purpurea il prossimo sabato, quando qualcosina comincerà a rimuoversi in sala. Saranno i primissimi film della nuova stagione. Saremo qui a raccontarveli, come sempre, su Radio 24 il sabato alle 18. Un saluto da Franco D'Assisti.